Il Lodo Alfano passa all'esame dell'Aula di Montecitorio, passa tra le polemiche di un'opposizione divisa, passa nei tempi stabiliti dalla maggioranza. L'annuncio della votazione del Presidente dell'Assemblea Gianfranco Fini. Presenti 575, votanti 545, astenuti 30, maggioranza 273, favorevoli 309, contrari 236, la Camera approva. Ma dal Partito Democratico Massimo D'Alema consiglia al Premier Silvio Berlusconi di farsi processare, mentre Walter Veltroni contesta la fretta nell'approvazione. Questo Parlamento è stato chiamato, con un esame in 48 ore, a votare una legge che è obiettivamente una legge per una persona. Perché non si è scelta la via di una legge costituzionale? E non la si è scelta per la necessità di andare velocemente, di fare presto. Il segretario del PD attacca in aula anche Antonio Di Pietro e prende le distanze dalla manifestazione di Piazza Navona. Di Pietro accusa invece Berlusconi di essere in contumacia, mentre l'UDC si astiene perché denuncia un baratto con la salva processi. La norma contenuta nel decreto sicurezza arriva in aula oggi. Il Lodo Alfano passa all'esame del Senato e verrà approvato entro la pausa estiva. Elisabetta Fiorito, GR24, Il Sole 24 Ore, Montecitorio.